140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Uscita da Amici, ha scoperto di essere diventata all'improvviso popolare. In classifica un album che si chiama come lei, semplicemente Federica. Federica era una ragazza semplicissima, cioè andavo a scuola, il pomeriggio tornavo a casa, suonavo, scrivevo nella mia cameretta, andavo a lezione di canto, normalissimo, cioè una ragazza normalissima con un sogno che sembrava irrealizzabile, no? Cioè lo mantenevo nella mia cameretta e basta. E mi ha cambiato la vita radicalmente, cioè entrando ad Amici, quindi è stato un continuo cambiamento, una continua evoluzione. Voglio sapere, intanto hai detto che andavi a scuola, che cosa facevi? O che cosa fai? Perché immagino che tu non abbia ancora finito, eh? No, non ho finito, ho interrotto il quarto anno e facevo la scuola alberghiera. Ah. Avevo scelto il ramo cucina, però non so, cioè in realtà, allora, devo finire la scuola, anche perché i miei mi ammazzano, però ho un minimo di buon senso e voglio finirla, quindi adesso l'estate è piena, probabilmente sarà difficile anche l'anno prossimo, però in qualche modo farò, però il diploma lo devo prendere per forza, lo voglio prendere, anche per portare a termine, cioè ad Amici ho sempre detto che non ho mai portato a termine niente. Adesso ho portato a termine Amici, sono arrivata in finale, ho fatto il disco, quindi vado a finire. Stai 2 mesi, 3 quasi, chiuso in un posto sempre con le stesse persone e non sai assolutamente quello che succede fuori. Non ti facevano vedere neanche il TG perché metti caso uscivano notizie su di noi, non lo so. Appunto c'è stato l'effetto sorpresa perché poi quando sono uscita fuori, a parte che in finale quando siamo usciti fuori c'era gente che ci aspettava alle 5 del mattino e là già ho detto cavolo, allora ci vogliono bene, cioè ci tengono a noi. E poi già dal giorno dopo, da 2 giorni dopo, iniziare a fare gli store e assaggiare questa popolarità è tipo il sogno, ma in realtà non è la popolarità in sé, è proprio il fatto che sto incontrando delle persone che mi vogliono bene, io sono contenta per quello. Però non mi aspettavo così tanto e non mi aspettavo di avere così tante ragazze che comunque si rispecchiano in me. Quella la trovo una cosa molto carina perché poi anch'io da teenager lo facevo, no? Con i miei idoli, magari tra virgolette. Sapere che delle persone provano le stesse sensazioni che provavo io per i miei idoli è veramente una soddisfazione enorme. Ti ha preso per mano Elisa in questo periodo, adesso cosa ti sta dicendo? Perché finché eravate là dentro un conto, ma adesso? Elisa ci ha preso, me Riccardo, sotto proprio il braccio, sotto la sua ala. Magari a me mi è stata tanto, tanto più vicina anche nella lavorazione del disco. E adesso c'è cazzeggio puro quando c'è il cazzeggio e consigli giusti quando mi servono, no? Quando mi serve un appoggio, una spalla, lei c'è sempre. Hai incontrato tante persone ad Amici, hai incontrato anche persone che non sono andate avanti, che magari hanno fatto i provini e non sono entrate o che magari non sono arrivate al serale. Pensi mai a loro? Pensi mai a come sarebbe potuto essere diversamente per te o a chi ci riproverà anche l'anno prossimo? Mi sento anche con alcune persone che non ce l'hanno fatta, non sono entrate o che sono entrate e hanno interrotto il percorso a metà, all'inizio, alla fine. Secondo me tanti ci riproveranno, li ho anche sentiti attraverso, avevamo un gruppo su WhatsApp con dei ragazzi che non sono entrati e da quello che ho capito ci riproveranno, ma perché già dall'inizio ad Amici ti rendi conto che potrebbe iniziare un'esperienza bellissima, l'esperienza della vita, e quindi già dai casting la voglia di entrare, la voglia di fare è tanta, quindi poi hai sempre più voglia di riprovare quella sensazione, e quindi è inevitabile che poi alla fine ci riprovi fino a quando non riesci ad arrivare al risultato. Quando poi esci da Amici ci sono tante aspettative, già in piena estate qualcuno dice Sanremo, queste cose, ma tu invece cosa fai per mantenere i piedi per terra? Penso che tutto quello che ho io adesso è una piccola parte del lavoro che ho fatto. In realtà non so spiegarti in che modo mantengo i piedi per terra. Mi sento anche piccola di fronte al pubblico che mi viene a vedere. Sei piccola anche di anagrafe, però di lavoro mi sembra di capire che ne hai già fatto tanto. Sì, esatto. Per quello io sono una persona estremamente perfezionista e fissata con il mio lavoro e con quello che faccio, e quindi ci tengo tantissimo a mantenere una linea dritta e precisa di fare il mio lavoro come è giusto che debba essere fatto. E quindi sì, in realtà so di avere 18 anni e tante volte lo sento, li sento i 18 anni addosso, però dall'altra parte so anche di essere magari molto più cresciuta, molto più matura di quello che in realtà dovrei essere magari. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Federica. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.